al tavolo di monitoraggio una proposta naturalmente certificata, il fatto che appunto bisogna di quel personale per coprire appunto le prestazioni, e quindi in quel caso si viene autorizzati, per cui c'è diciamo un controllo delle assunzioni, ma non c'è più il blocco delle assunzioni, per cui se c'è un'esigenza perché manca uno specialista c'è possibilità di assumerlo. Le aree di criticità sono quelle nelle quali vi è una riduzione della qualità dei servizi, spesso anche accompagnata da una forte invece dilatazione dei costi. Allora l'intervento non può che essere quello di ridare appropriatezza a tutti gli aspetti del sistema, perché ci possano essere al tempo stesso qualità migliore e contenimento dei costi. In un periodo difficile per il nostro paese questo è l'imperativo dominante. Appropriatezza, che in un gergo a metà tra il tecnico e il politico, significa nella lingua del ministro Balduzzi che se non si parlerà apertamente di tagli alla sanità, di certo non sono previsti nuovi investimenti nel prossimo futuro in un paese dove ormai un cittadino su 5 ha più di 65 anni. Sentiamo la voce di Chiara e Savino, giovani medici in attesa di entrare in una scuola di specializzazione, e quella di Carolina, specializzanda in ginecologia. La questione è questa: lo studente di medicina paga per studiare, quindi incrementare i posti è sicuramente non dà uno svantaggio al Ministero dell'Istruzione, perché comunque sono tasse universitarie che vengono pagate, mentre i posti in scuola di specializzazione sono posti in cui sì c'è una tassa, ma in realtà c'è una borsa che viene fornita al medico, certo, in formazione. Se non entra ci può essere la possibilità di avere delle borse di studio, ma dipende un po' dal primario o dal prof che ti porta avanti. Una volta il rischio di aumentare il numero dei posti di specializzandi, se vogliamo dire, è che aumenta il numero di persone contrattiste che aspetta il concorso per diventare strutturato. I concorsi sono a giugno, se le cose non cambiano, i primi concorsi utili sono a giugno. Anche qui è interessante come in Italia chi si riesce a lavorare in tempo alla prima sessione, che è quella di luglio. La mia stessa è da quella di luglio del 2011, tra la parentesi dell'esame di Stato che dura 3 mesi, che comunque è obbligatoria, però la prima finestra degli ingressi in scuola di specializzazione sono l'anno dopo praticamente, perché sono a giugno del 2012. Più che altro il problema poi viene dopo, non tanto nella specialità quanto nell'assunzione poi post specialità. In che senso? Non assumono, gli ospedali pubblici non assumono. C'è carenza di medici, anestesisti prima di tutto, poi altri medici, altre specialità, per cui non assumono personale, aumentano semplicemente i turni dell'organico già assunto. E così, tra la prospettiva di aspettare perché altri studenti meno veloci si laureino e quella di immettersi in un mercato del lavoro dove la pur crescente domanda viene coperta da precariato e straordinari, ai migliori dei nostri giovani può venire in mente, dopo 6 anni di studi in Italia, di andarsi a specializzare proprio fuori dal paese. È consigliato anche da parte di professori andare a fare la specialità all'estero, perché in Italia c'è un po' il problema che ti fanno fare magari poca pratica, mentre all'estero subito ti mettono diciamo alla prova. Le possibilità per uno specializzando al di fuori dell'Italia sono sicuramente importanti, questo non è un luogo comune, è una cosa concreta, si impara sicuramente di più, c'è più autonomia che viene concessa al specializzando, fin da subito viene comunque seguito, ma viene messo davanti a dei problemi e non c'è insomma quella sudditanza che è tipica delle università italiane, che tendono comunque a rallentare, a rendere un pochettino meno ripida la curva di apprendimento e comunque sempre a prolungare il tutto. Era il reportage di Francesco Maesano sulla sanità italiana, la seconda edizione di Italia in Controluce. Questa puntata è in podcast su radio24.it. Per comunicare con noi avete varie possibilità: siamo su Facebook, abbiamo la pagina, il gruppo, siamo su Twitter, il nostro blog lo trovate sul sito della radio, oppure per inviarci una mail controluce@radio24.it. tutti i giorni, due edizioni, la replica alle 3.40 di notte, 6.30, 13.30 su Radio 24. Nuove inchieste, nuovi reportage.